Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono vite che nascono per viaggiare, per andarsene o per cercare qualcosa, il che poi non è così diverso. Si può andar via dalle responsabilità, dalla famiglia che ti impone delle regole. Si può viaggiare per sentirsi liberi. E se tutte queste fughe, questi viaggi non fossero nient'altro che l'inevitabile tragitto verso il proprio destino, la traccia già scritta di una vita scontata? È impossibile. Lo scopriremo quest'oggi grazie alla storia di un uomo che nel viaggio ha trovato nutrimento e spunti per un futuro a lui assolutamente inimmaginabile. Lui ama definirsi un viandante e oggi a Destini Incrociati scopriremo come il suo futuro sia legato a eventi certamente imprevedibili, ma comunque causati dalla sua continua ricerca. Il suo nome è Pino Cacucci. Pino Cacucci. Pino Cacucci nasce ad Alessandria nel 1955 e si trasferisce immediatamente a Chiavari, in Liguria. Il mare è davanti a casa. Certamente influisce con il suo profumo, il suo senso di libertà, al suo sentirsi uno spirito libero. Una famiglia normale, un'infanzia tranquilla. Troppo. Pino non riesce a stare dentro gli abiti del bravo ragazzo. Ascolta musica, guarda lontano. Ha voglia di vivere la propria vita senza rendere conto a nessuno. Già a 18 anni, il suo desiderio è quello di andare a stare da solo. Per questo, cerca di convincere i suoi a iscriverlo al DAMS di Bologna, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Nel 1974, quello bolognese è un corso di laurea appena nato. Le prime lezioni iniziano infatti nel 71 in un clima euforico. Gli studenti frequentatori non sono più di 60 per corso e i professori sono quasi coetanei degli studenti. Un'università innovativa e stimolante, quello che serve a Pino, giovane e irrequieto, per chiarirsi le idee. Insomma, Bologna, il DAMS, non voglio dire che siano stati casuali, ma in qualche maniera era più la mia voglia di andarmene da dove stavo, cioè di vivere in maniera totalmente indipendente, che l'attrazione per il DAMS in sé. Questa variopinta nuvola d'aria fritta attirava moltissimo. Poi dopo il DAMS è la classica situazione in cui puoi fare di tutto e nulla, insomma. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Il DAMS e gli anni 70 sono una combinazione esplosiva. C'è l'impegno politico, le idee, le passioni. Tutto ciò che serve a uno studente che vive a Bologna, la città universitaria per eccellenza, per sentire l'adrenalina a mille. Poi ci sono i locali, le osterie. Si vive bene nel capoluogo emiliano. Ci si sente al centro del mondo, con la forza di cambiare tutto. Cioè, arrivo a Bologna e mi sembra che qui ci fosse una creatività sfrenata, insomma, si viveva più per strada che al chiuso di poi quegli affollati appartamenti. Il DAMS, le università che cominciano ad essere occupate, un movimento che cresce a Bologna differenziandosi molto dal resto d'Italia perché è più non violento e estremamente creativo e quindi cosiddetti indiani metropolitani, insomma tutta una serie di cose in cui io mi sono coinvolto al 100% per 24 ore su 24. Poi, anno dopo anno, corso dopo corso, tutto diventa stretto. Quell'università evidenzia come l'eclettismo di corsi sperimentali che non hanno sbocchi precisi possa rivelarsi un boomerang per quegli studenti che non riescono subito a trovare una direzione lavorativa, una collocazione nella società. La televisione privata è agli esordi, la radio commerciale è appena nata. Insomma, ci sono tantissimi stimoli, ma poche idee chiare. Per Pino Cacucci, che ha iniziato a scrivere da poco, la sensazione di essere nel posto sbagliato è qualcosa di insopportabile, come gli amici, le abitudini, i locali. Bologna diventa improvvisamente statica, immobile, o forse semplicemente sta mettendo davanti a quel giovane le questioni serie della vita. A lui, che di diventare grande non ne ha poi così tanta voglia. E Pino cosa fa? Scappa. È quello che fino ad ora gli è riuscito meglio. A Destini Incrociati seguiamo la storia di Pino Cacucci, giovane studente del DAMS a Bologna, con la passione per la narrativa e uno spirito ribelle. La fuga di Pino Cacucci, in realtà, è facilitata dal mutamento dei tempi. Bologna è un crocevia di avvenimenti tragici. Da Bologna, il 27 giugno del 1980, parte il 19 Itavia diretto a Palermo. Un aereo che non arriverà mai. La ricerca delle cause del disastro. La società Itavia ha smentito l'informazione. Sempre a Bologna, il 2 agosto del 1980, si fermerà l'orologio della stazione alle 10:25 e con esso la vita di 85 persone. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono... Alle letture, alle idee e all'impegno di quel periodo si sta sostituendo lentamente ma inesorabilmente l'estetica, l'apparenza, l'effimero. La reazione è pesante, sia a livello culturale che politico. Pino si sente fuori posto anche per questo. Sono arrivati gli anni Ottanta. Si apre il sipario per l'Italia della moda, del look. Una restaurazione morbida. Per Pino Cacucci quell'Italia non è un posto nel quale riconoscersi. Anche in questo secondo caso potrei usare il termine fuga, così come non era tanto il DAMS ma era la voglia di andarmene altrove e vivere per conto mio che mi ha portato a Bologna nel 75. Allo stesso modo fu la voglia di andarmene dall'Italia dei primi anni 80 che trovavo assolutamente insopportabile da tanti punti di vista, non solo politicamente, ma era proprio l'Italia così, dove l'esteriorità contava più dell'interiorità, dove comunque io sentivo a fior di pelle una sorta di era della glaciazione dopo forse quell'eccesso di passioni del 75-77, insomma. Il viaggio comincia. Pino se ne va prima a Parigi, dove il clima libertario e sperimentale è ancora molto forte. Poi, spinto forse dalle affinità linguistiche o semplicemente dal richiamo del mare, che per lui significa casa, si sposta a Barcellona, la città che in quegli anni sta gettando le basi di una rivoluzione culturale che la vedrà capitale d'Europa delle avanguardie. È solamente il trampolino di un volo molto più lungo che lo porterà ad attraversare l'Oceano Atlantico, verso la tappa di un cambiamento della sua vita che certamente lui non può immaginare. Direzione Messico. Buenos días. Scusami, signor, ma io non sto abituato, cioè, non è il modo di pirare, non è che io lo frequento. Non. Esto es un Rolex, es un assegno circolare. In tutto il mondo, esto es un Rolex. In Messico tutti i valori occidentali sfumano, perdono significato. Diego Abatantuono, nel film Puerto Escondido, impara a sue spese la differenza tra il mondo occidentale e quel mondo lento, povero, dolce. Il Messico non è meta di un viaggio, è un altrove da tutto il resto. Il Messico non è un paese, sono 10 messi insieme, per varietà culturale, etnie, geografia, clima. È una terra di mezzo, nella quale l'asprezza del territorio si fonde con la giovialità e la serenità del modo di vivere di coloro che possono, almeno anagraficamente, chiamarsi messicani. Il Messico è un luogo che nei secoli ha attratto e prodotto, importato, esportato ribelli e rivoluzionari. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Tina Modotti. Per altri come il Che e Fidel Castro, il Messico è stato solo una tappa. Il paese americano è un luogo fluido che non conosce la fretta. Una sorta di limbo dove riprendere il senso del tempo e riflettere sulla condizione umana. Perché no, anche incontrare se stessi. Pino Cacucci non cerca la ribellione, ma spunti per i suoi racconti. Non crede che un giorno potranno essere pubblicati. Continuava a scribacchiare, però in realtà in me era ormai maturata l'idea che non valesse la pena di continuare a sprecare tutto sto tempo. Sì, scrivevo, ma per mio diletto, insomma. La prima città dove Pino si stabilisce è San Miguel de Allende, una splendida cittadina coloniale a nord di Città del Messico. Le distanze si misurano in percorrenza in Messico. San Miguel si trova a 274 chilometri dalla capitale, sono 4 ore di viaggio. È una città senza tempo, con le sue strade lastricate in pietra, la sua tradizione, la sua cultura. Pino incontra amici che resteranno per tutta la sua vita. Poi è la volta di Città del Messico e di Puerto Escondido. Dall'Italia, dall'Europa, noi abbiamo due scelte di altrove, verso Oriente o verso l'estremo Occidente. In effetti il Messico e tutta l'America Latina hanno rappresentato, così come l'India e l'Oriente, hanno rappresentato in particolare per la mia generazione, io sono nato nel 50, i due viaggi d'obbligo quasi. L'India è più mentale, più raffinata, più mistica, e forse il Messico è più carnale, più di pancia, più magico. Sono le parole di Gabriele Salvatores, regista premio Oscar, che condivide con Pino Cacucci una tappa importante della sua carriera, Puerto Escondido. Prima romanzo, poi pellicola. Parole che servono per capire l'importanza di andare alla deriva per trovare la strada. Di quanto sia utile prendere le distanze per vedere le cose da un'altra prospettiva. Pino fa proprio questo, senza pregiudizi, su come sbarcare il lunario. E allora si era formata nel frattempo una banda di viandanti e distanziali, cioè mista di messicani e italiani e non solo, insomma ci siamo associati per mettere in piedi qualcosa che ci permettesse di campare là. E cosa fanno gli italiani se non sanno fare altro? Pizza e spaghetti. E quindi nasce questa avventura a metà degli anni Ottanta del vivere decentemente senza che nessuno di noi si credesse un imprenditore all'estero. Però ecco, si imbastì questa realtà di un ristorante con poi musica dal vivo, gruppi di salsa e jazz, insomma un delirio in cui ci siamo divertiti molto. E tutto questo dura fino all'88, che segna anche l'uscita del mio primo libro in maniera un po' rocambolesca, nel senso che io ormai avevo quasi rinunciato a scrivere perché nessuno mi pubblicava. La prima svolta Pino la vive nel 1988. È ancora in Messico quando un piccolo editore in Italia decide di stampare il suo primo libro di racconti. Si intitolerà Outland Rock. Storie di improvvisi stop and go, di svolte inaspettate, che hanno a che fare con la fuga, con il ricominciare, con il mettere in discussione ogni cosa come metodo di conoscenza. Il suo metodo. Un editore pochissimo conosciuto, un libro di racconti come tanti, poche copie in libreria. Pino Cacucci guarda la pubblicazione italiana da lontano, dal suo Messico. Non immagina che il caso lo sta facendo incontrare con un altro uomo che cambierà per sempre il suo destino, complice l'immagine di copertina di quel libro. Per chissà quale capriccio nella mente dell'editore ci mettono un gorilla in copertina. Il gorilla, sì, cosa c'entrava con le storie raccontate? Nulla, però non so, pensavano magari si fa notare. It just don't seem fair. No, no, no, no, no, no, no, no, tweet, tweet, doody-doody. Come on, baby. He's still a gorilla. Pino Cacucci non lo sa, ma quel gorilla inserito in modo così assurdo nella prima di copertina del suo libro di racconti sarà il motivo della sua svolta nella vita e l'inizio di una grande amicizia. Un piccolo editore, già era tanto che avesse una distribuzione, qualche copia in libreria ci arrivava, una copia, come nelle favole, arriva nella libreria Feltrinelli, vicino a casa, credo quella di Via del Babuino, comunque, dove quasi ogni giorno Federico Fellini andava così per sua curiosità a guardare, e lì inizia il cambiamento. Il prima e il dopo, un qualcosa che comunque è stato fondamentale. Pino non lo sa ancora. È profondamente immerso nel limbo del suo ristorante con musica dal vivo, nell'amicizia del suo gruppo, nelle musiche, la salsa, il ritmo lento e ipnotico come il girare delle pale di un ventilatore sul soffitto. Ha scritto 5 racconti, cosa vuoi che sia. Non li leggerà nessuno in Italia. E lui sta bene lì dove si trova. Prende il libro, lui mi ha giurato che era stato tentato di strappare la copertina perché il libro non è che gli interessasse. Però per una serie di anche questioni fortunate, come il fatto che lui era un lettore onnivoro e era anche insonne, per cui la notte leggeva tantissimo, già che ce l'aveva lì, se l'è letto. A destini incrociati, Pino Cacucci, viandante del mondo, fuggito in Messico da una realtà troppo stretta, incontra l'uomo che cambierà il suo destino, mettendolo prepotentemente sulla strada di una carriera letteraria importante e prestigiosa. Quell'uomo è Federico Fellini. Federico Fellini. Pino Cacucci è ancora a San Miguel, non ci pensa, non ancora. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde desde morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Destini incrociati. A Destini Incrociati, Pino Cacucci, un quasi scrittore, viandante del Messico, pizzaiolo, ristoratore, ma anche tante altre persone allo stesso tempo, non sa ancora che il suo futuro cambierà per sempre. Non avrebbe scommesso un peso sulla sua carriera di scrittore. Nell'inverno del 1988, quella scommessa l'avrebbe senz'altro vinta. Scopriamo perché. Federico Fellini, il maestro del cinema italiano, quell'inverno del 1988, è a caccia di spunti per il suo lavoro. Frequenta tutti i giorni la libreria vicino a casa, un tuffo nel mondo dove arricchirsi, e si imbatte tra i tanti nel libro di Pino Cacucci, Outland Rock. In copertina campeggia un gorilla pensoso con gli occhi rivolti verso il cielo. A Fellini naturalmente non interessa il libro, lui ha una mente fotografica, lo colpiscono le immagini, così come quella copertina. Sta preparando la produzione di uno spot e ha bisogno di idee per le sue scenografie. Potrebbe strapparla, portarsela via. Invece, compra il libro e se lo porta a casa. Per il maestro è un momento, come sempre nella sua vita, di grande lavoro. Il regista ha abbandonato solo 3 anni prima l'idea di girare un film in Messico, affascinato dalle lezioni di Don Juan di Carlos Castaneda. Fellini era quasi arrivato al punto di iniziare le riprese. Poi, durante il sopralluogo con Castaneda nel Messico, questi sparisce inspiegabilmente, mandando a monte l'intero progetto. Curioso incrocio questo con la vita di Pino Cacucci, che in quel periodo era proprio nel paese americano. Se solo si fossero incontrati prima, forse Cacucci avrebbe potuto fare da guida al maestro. Il progetto si conclude con la pubblicazione prima sul Corriere della Sera e poi in libreria di un racconto disegnato da Milo Manara. Fellini non sa della passione messicana di Cacucci, né quest'ultimo del desiderio di Fellini di girare un film nel paese che lo ha accolto. Lui ci andò perché era proprio interessato a girarci un film. Quindi questo progetto fallisce, non si può più fare questo film per tantissimi motivi, sparisce nel nulla anche Castaneda, che non si fa più trovare perché in qualche modo ha capito che non era il caso, per varie cose che succedono. Però Federico torna in Italia con questo rovello, con questo tarlo in testa, perché non riesco a fare un film in Messico che mi sarebbe tanto piaciuto farlo. Ma torniamo a quel libro trovato in libreria con una copertina curiosa raffigurante un gorilla. Fellini lo porta a casa. Mette da parte il gorilla per i suoi scenografi e anche a causa della sua insonnia, durante la notte riesce a leggerlo tutto. Ne rimane colpito. Gli piace quella scrittura veloce, fotografica, quasi visiva, vicina in qualche modo all'arte cinematografica. Il maestro decide quindi che deve conoscere l'autore. Come mettersi in contatto? Nel modo più semplice, col telefono. Telefona al Cacucci dell'elenco di Bologna ed è mia sorella che risponde, e quando si sente dire sono Federico Fellini e vorrei sapere se lei ha qualcosa a che fare con Pino Cacucci. Mia sorella pensa il solito cretino di amico di mio fratello che fa gli scherzi, e quindi lei dice sì, e magari sì, Federico Fellini, e magari fa anche il regista. Lui dice beh sì, così dicono, e per un po' c'è questo dialogo dell'assurdo. Assurdo o straordinariamente coerente. Immaginate un bel giorno di ricevere una telefonata simile. La vita del neoscrittore sta per cambiare radicalmente. L'occasione di indirizzare tutte le proprie idee, gli spunti, le esperienze di una vita in viaggio, sulla passione di sempre, la scrittura, sta per avere uno sponsor speciale. Disinteressato, sincero e per questo ancora più potente. Per Cacucci è più che un trampolino di lancio. In quel momento nella mente di Pino si affollano 1000 pensieri. Provavo una forte volontà a non illudermi, perché pensavo a quanto grande potesse essere la delusione se poi risultava o che non era lui, ma come mai? Insomma, con tutti questi dubbi intanto passeggiavo avanti e dietro con sto numero in mano, che faccio? E quindi da questa cabina nel centro di Bologna alla fine dico ma sì, vediamo chi risponde e cosa mi dice. Inizia un'amicizia vera, semplice, e per Pino l'epoca della notorietà. Lo scrittore consolida le sue relazioni editoriali, la stampa comincia a contenderselo per interviste. Il suo sguardo visionario viene tracciato da registi importanti. e Pino è pronto a scrivere il libro chiave della sua svolta. Un'idea nata a Bologna prima e maturata nel suo Messico poi, Puerto Escondido. Cacucci è lanciatissimo. Puerto Escondido esce nel 1990 e subito balza in cima alle vendite. Cacucci è lo scrittore che piace a Fellini, il quale lo definisce ora un artigiano costruttore di trame, ora ringraziandolo per le ore di divertimento vissute nel leggerlo. Le riviste fanno a gara per avere una sua intervista. Inevitabile che il suo libro finisca tra le mani di un altro regista famoso, questa volta giovanissimo, Gabriele Salvatores. Cioè, erano due cose che mi piacevano nel romanzo di Pino Cacucci: questo ribaltamento della figura del commissario che diventa killer, ma poi addirittura un personaggio fantastico una volta che di là in Messico, molto umano, cioè il giocare con gli stereotipi, cioè ribaltare le cose, far vedere cosa c'è dietro. Dall'altra parte sicuramente questo concetto dello spostamento, cioè del mondo altro. Puerto Escondido in qualche modo è il sequel di un racconto contenuto nel primo libro di Cacucci, quello del gorilla per intenderci. Il protagonista del racconto sembra morire ucciso da un commissario un po' matto. Puerto Escondido inizia il suo risveglio dal coma in un ospedale. È l'inizio della fuga e dell'incontro con altri italiani che in Messico hanno sperimentato la libertà di un cielo sulla testa. Signor, per favore, puoi aprire la cortina? Quiero mirare un pochito del cielo. Le ultime immagini di Puerto Escondido sono quelle di Diego in un ospedale arrestato, che però chiede non a caso di aprire la finestra per poter vedere il cielo. Già questo è un segnale positivo, il cielo gli è diventato sufficiente come idea di libertà, mentre prima probabilmente viveva in un mondo in cui aveva tutto quello che voleva, ma la libertà forse un po' meno. È il messaggio di Cacucci e nel film di Salvatores. Basta un po' di cielo per sentirsi liberi. La vita così come la conosciamo, il lavoro, l'assicurazione, il mutuo, sono un limite alla vera libertà, rappresentata dall'aria, dal cielo, dal mare, dall'assenza delle cose. Gli anni Ottanta sono appena terminati. Per il nostro protagonista sono un colpo di spugna agli ideali, alla voglia di cambiare il mondo. Un colpo di spugna alla speranza di una generazione. L'unica risposta che ha saputo dare a questa glaciazione di ideali è la fuga, che diventa un leitmotiv in grado di appassionare il pubblico e diventare una grande storia da raccontare. Gli anni Ottanta non sono passati invano. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1988. Un giovane scrittore, Pino Cacucci, non ha una sola speranza di riuscire a emergere. Ha scelto la fuga per interpretare la sua vita. Vive in Messico. L'incontro casuale e magico con il maestro Federico Fellini, che si appassiona a una copertina del suo libro, raffigurante un gorilla, riesce a dare il giusto posto allo scrittore nella realtà in continuo cambiamento tra gli anni 80 e i primi 90. Gli anni che segnano il suo grande successo editoriale. Ma torniamo al grande Fellini, che in quel 1988 sta attraversando un momento difficile. Potrà sembrare impossibile, ma Fellini, nei primi anni 90, è un uomo simbolo che fa piacere invitare alle feste e alle celebrazioni, ma al cui sguardo visionario non si vuole dare più spazio. Si preferisce un cinema più commerciale. Nel 1993 arriva un Oscar, il quinto, non per un nuovo film che non c'è, ma alla carriera. Come al solito, la sensibilità dell'Academy americana va oltre quella dell'industria cinematografica italiana. Qui è Marcello Mastroianni che lo chiama a ritirare l'Oscar. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. È l'ultimo atto per il grande regista. La sua potenza è ancora immutata, l'energia intatta, ma il clima è cambiato definitivamente. Ma anche perché l'epoca ormai era quella, si preferiva il Fellini icona o il Fellini che si adattasse a fare uno spot d'autore che diventava un gioiellino, ma che si mettesse a fare un film e dopo pensavano e quanto potrà incassare, no? Buonasera, signora. Dottore, vorrei permettermi di suggerire consommé d'Orléans, potage soissonnaise o crêpe beurrée, boucher à la gauloise, d'Artois à la Reine, marmite lyonnaise, soupe Colbert, gelée de bouillon, bouillon royal, crêpe valesca à la sauce suprême. Rigatoni. Ah. Quello che avete sentito è il mitico spot dei rigatoni più famosi degli anni Ottanta. Uno spot diretto dal maestro. In quegli anni la pubblicità era in uno stato di grazia. In passato era il carosello, poi spot un po' grossolani. Infine il grande sprint dato dall'avvento della televisione privata commerciale, che inizia le trasmissioni nel 1980. Con i grandi budget, la pubblicità si avvicina all'arte e Fellini è la grande personalità del cinema che può dare un contributo importante. Fellini, senza pregiudizi, da artista qual è, accetta di dirigere lo spot della pasta. Ma proprio negli anni dell'incontro con Pino Cacucci, nel frattempo divenuto un caro amico, l'indignazione pervade il maestro alla notizia che i film programmati dalle televisioni possono essere interrotti dalla pubblicità. Per Fellini è inconcepibile, inaccettabile. E si batte come un leone. E poi era anche l'epoca in cui lui aveva ingaggiato come un Don Chisciotte contro i mulini a vento la sua lotta pressoché solitaria contro le interruzioni pubblicitarie nei film, in televisione, cosa che oggi è stata completamente dimenticata e sembra scontato che così debba essere. Bevi la Coca-Cola che ti fa digerire. Tutte quelle bollicine. Cola sì, Coca-Cola a me mi fa morire. Coca-Cola sì, Coca-Cola a me mi fa impazzire. Tutte quelle bollicine. Federico Fellini ha in quel giovane autore un amico con il quale confidarsi. Fellini è sempre Fellini, conosciuto in tutto il mondo. Sta preparando La voce della luna, il suo ultimo film. Ma la pressione dei produttori, più attenti oramai agli incassi e al ritorno di investimento, che ha un prodotto di qualità, è decisamente insostenibile. Fellini fa più comodo come icona che come regista. Intanto Pino Cacucci continua la sua ascesa come autore e sceneggiatore. Intanto fioccano le richieste di interviste. Tutte titolavano il giovane scrittore scoperto da Fellini. Cioè questo scoperto da Fellini comincia a diventare il marchio, che ovviamente mi spalanca molte porte. L'accelerazione diventa travolgente quando di lì a poco mi cerca addirittura il patriarca Cecchi Gori. Cacucci, prima dell'incontro con Salvatores e del film Puerto Escondido, comincia a scrivere sceneggiature. Partecipa anche a produzioni televisive. Vanno in onda due episodi, ideati e scritti da lui, di una serie televisiva, Il Commissario Corso. Beh, io feci almeno due puntate della serie Il Commissario Corso, interpretato da Diego Abatantuono. Così conosco Diego Abatantuono, quando né lui né io avremmo mai immaginato che un giorno sarebbe stato il protagonista di Puerto Escondido. Però insomma, ecco, questo continua la favola. Ma sono i racconti, le storie, che interessano a Pino. Continua la collaborazione con Salvatores per Nirvana. Ma le storie del suo Messico riempiono le librerie e sono continuamente oggetto di numerose ristampe. Pino oggi vive a Bologna, va in giro in bicicletta e ha sempre un nuovo progetto su cui lavorare. Il ribelle che è dentro di lui vive con il suo lavoro, la sua scrittura secca, essenziale, dritta sul punto e spesso dedicata con passione e delicatezza a vite del passato e del presente che a lui hanno dato qualcosa. Questi appunti di viaggio sono tutti riportati in un libro diario intitolato Un po' per amore, un po' per rabbia. Una Moleskine, come lui ama definirlo, nel quale ha inserito avvenimenti, personaggi, pensieri, compresa la storia che oggi noi di Destini Incrociati vi abbiamo raccontato. una storia apparentemente guidata dal caso, nella realtà segnata dalla determinazione. Se avessi 20 anni, oggi, più che allora, dovrei muovermi. Non si tratta solo di andarsene dall'Italia, si tratta dell'avere sempre presente che il tuo microcosmo a volte può diventare soffocante. È sufficiente spostarsi, puoi fare 10 km o 10.000, non è importante che siano tanti. Dal di là di un pezzo di orizzonte potresti vedere l'aldilà in un altro modo. Facciamo nostra una frase di Pino contenuta nei suoi libri. Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici. E le gambe sono fatte per andare altrove. Moving in silent desperation, keeping an eye on the holy land. A hypothetical destination. Say, who is this walking man? Well, the leaves have come to turn in, and the goose has gone to fly, and bridges are for burning, so don't you let that yearning pass you by. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.